di un culo, tante volte la madre diciamo più di tutto, di tutto, perché ogni madre conosce suo figlio, c'è poco da fare. Perché di Marco, Marco se tu lo conoscevi da piccolino era magro magro, eravamo disperati perché mangiava poco, siamo andati alla pediatra e gli abbiamo detto questo bambino non mangia ed è perito, questo e quell'altro, se gli dava qualche cura ricostituente per farlo un po' irrobustire, perché era uno scricciolino, cioè aveva giochi grandi grandi, era magro magro. E niente, la pediatra ci ha detto io ve la do la cura, non c'è problema, però ricordatevi una cosa, che poi verrete qua per dirmi mi dia qualche cura per farlo dimagrire, perché i bambini così poi va a finire che riprendono tutto in una volta. Beh, fatto sta che aveva ragione, aveva visto, va per farlo mangiare poco, dobbiamo lottare. Chiappa, sempre lo grasso stesso. Adesso si sta sottigliando, ma dica una lotta per non farlo mangiare, per non farlo mangiare molto. Non guardiamo la mania. No, sta sottomisurando, per dire io metto la pasta, poi la metto a lui. E mi dice, ah no, tu te ne hai messo di più, metti la gamba di più. Ho detto, ma io sono più grande di te, Marco, di tu. E io devo crescere, per quello ne devo mangiare di più io. No, prende troppo e troppo. Ah, io già mangiavo quando ero piccolo, però già a un certo punto, arrivavo a un certo punto che non mangiavo più. Bisogna vedere quel punto dov'era. Ah, non è che ero molto. Adesso mangiamo. E la mangio già. Non tantissimo, ma già mangio. Ma i panini a te piace tanto, eh? Non ti credo perché io il panno non lo mangio tutti i giorni, no? Manco io prima sì, ma adesso la... adesso più faccio di queste cazzate. Ma già me lo mangiavo ogni giorno. Ho tornato alla fuori, la prima tappa me la facevo l'attore, facevo un bel panino con il Wurster, poi me ne andavo a casa. Arrivavo a casa, per la zena, mangiavo la zena. Oh. Ah, il panino... capito, il panino la mattina, io la mattina non è sempre che io mangio il panino. Mangio lo yogurt, mangio il budino, il panino il sabato, il venerdì così. No, io la mattina è difficile che ne mangi, no? Mangio nulla la mattina, solo latte col caffè senza nulla dentro e boh, dopo tu mangiano così, massimo una frutta. Scappa. No, io così, la mattina mi mangio. Un cappuccino, due pasta. Io è abbastanza. Cappa. Cappuccino e due pasta alla crema. Frigiui. Oh, una frittella e un cornetto. Io sono buono. Ma mangiatele le paste dove ti ho detto io. Di lì, se poco sono buono. Devi la pasticceria che c'è dietro la chiesa del Cuore Immacolato lì. Non posso ancora la cosa di andare. Appena mangio quella di Rauma. Poi mi aggornetto che è pieno di crema e Rauma le fa buco. Quelle lì mangio io. Quelle di Rauma, secchi le fa buone, sassari, muritto. Sì. E anche quelle che fa cosa, ma sì, già sono buone lo stesso. E i pasticceri sono tutti bravi, eh? Però c'è quello che le fa meglio. Il tuo numero uno a Sassa. Sono buone. Oh, da quello che c'è a Pompe Nuovo. Già lo so. Quella è una pasticceria elite. Ma buona le fa. L'unica che le fa durante la settimana fanno, in via Nunzio Gerli fanno sempre il pattancini, fanno le passate, la domenica li fa, le passate, è proprio già buone. E quello lì è pulito, se c'è fratello. È una generazione poi Mulitù, tutti i fratelli, te ne ricordi ce n'era una pasticceria anche in Viale Trento, prima del CIA? Non me lo ricordo. Lì, la festa faceva un bel buono, sempre Mulitù. Era una generazione, i fratelli, zii, nipoti, tutti quanti i pasticceri. Chiappa, stavo leggendo, c'è della fiorita di loro. Ne proprio ricevimenti, cose belle. Ma noi stiamo male per il postino. Che? Ah, che se mangiamo tutto se siamo in tutte quelle, quelle con la cappa e quelle con la marmellata le lascio, ma tutte le altre, quelle con la crema, buona. Adesso mi sale la glicemia solo a pensarci. Chiappa. Anche quelle di Fugione sono buone, ma non è che siano il massimo. Vabbè. Poi ci lavora la Fugione, quello con gli occhiali. Perché sull'agnolaglio. Quello con i bicitti, brutto. Era un pipistrello. Magro, magro. Sì. Ma lui lavorava lì in Piazza Castello, a Martorino. Oh, ciao. Io vengo sempre tanto olandese. E che state compreso lì, è buon caffè, è un caffè. Una volta siamo andati al Bartolino quando lavorava lui con questa amica a prendersi il caffè, cazzo, si è scappata dalla risa, ma poi con le gatte e muroci, stavano del caffè in traverso. Ma era brutto. È brutto veramente. E vabbè, comunque eravamo disgraziati anche come eravamo tremendi. Una volta mi ricordo che in Piazza Castello, sai che venivano per il giuramento, quando facevano i giuramenti militari, i parenti, no, la ragazza, il padre e la madre, mi sembrano passeggiati in Piazza Castello, e qui andavano e tornavano, c'era una massata di merda, ci metteva sempre il piede, se non si inabizzavano. Io e questo amico mio eravamo pisciati dalle risate, a un certo punto è passato questo qua, con i bicitti grossi, cazzo, questa è com'è, poi non ne affonda pure, si gira la rissa, vai, dammi la borsa, vanno. E noi ci sentiamo cose per ridiamo. Beh, è combinato. Con questa qua, no, la ragazza di questo militare, a un certo punto se ne ha abbizzato, va bene, di chi si volte a bizzare, di chi si... era passato tutto qua, il piede, tutto qua. Cosa ha fatto? È andata in un'aiuola a sfregarsi le scarpe, invece che uscirvi, quello che doveva uscire, gli sono attaccate anche le foglie e i fiori secchi, attacca a mare, lì siamo in cui... Ma noi ci facevano ridere ogni cosa prima, cazzo, tutte le cose strane ci facevano ridere. Ciao, ne combinavate un bel. Una volta siamo andati a mangiare raffini, ci hanno dato il pepe, no, per mangiarla lì, e io ho preso questo pepe, non so come parlando, non ti abbizzi ne manco, me l'ha giubilato e me l'ha giubilato. Ma cazzo, non mi sono accorto che c'era il cameriere dietro, ci ha detto se ne volete di pepe ve ne do anche altro, problemi non ce ne sono. Arrivo. Ho fatto distrattamente proprio, non si sta pensando. fissarci e parlando, ridendo e facendo, dicevo questo peperonato e poi ci butto bucciare. Ma perché non ne mettevo nemmeno di peperoni, non li uso nemmeno in casa, peperoncino sì, ma pepe sì, pepe no. Ma non poco fa di male, meglio niente. Il pepe fa male davvero. È peggio il peperoncino. Io metterlo nella ferì e cose, io non li mangio. Non ne voglio mai di pepe. Via. Prima si andava a mangiare la ferì come si mangia la pizza adesso. C'erano i tavolini, prendevi la spuma. Schiappa. Siamo lo ricordo già. Siamo l'ho messo su una volta, mamma mia. Infatti il pepe non usa, magnativo. La buona anima di Cesare, sai cosa l'avevamo fatto? Ne abbiamo svuotato mezza boccetta dentro una fetta grande di ferri e l'abbiamo piegata. Ma chiedo, quando bidevamo la ferri si bidava sempre la fetta più umana. Come ti la vista, boom, mi via a Tequito. Si la mangia da tutta canta. Edo e Giancarlo, tutti e due erano i caimani. Ce l'hanno mangiato da tutta canta e non ha dato la soddisfazione di chi bruciava niente. Si è abitato la birra, si è abitato la birra, tranquillo. Oh, non è che si è avvenuto. Non ero forte. Ehi, non avevo e dopo lo faceva pure, se lo pigliava pure Edo, si demonia un bel po' far vedere che Edo no. Ma tanto la gente così che fa la spaccola, vedi? Via. Ci faceva mettere i campari tutti sul tavolo, in fila, qualcosa. Hanno fatto una scommessa una volta. Si è fatto mettere 32 campari tutti quanti in fila e si è bevuti a uno. Si è bevuti tutti quanti per scommessa. Io dico, la scommessa l'ha vinta, però. I campari in colpo via via e noi. E sai cosa ha fatto i campari? Li ti sciugli. Già so già. Ehi, ma gente che ha fatto il forte ci ha sempre rimesso. Ehi, ma che non siamo di ferro, mi anzi, come poco di fa, perché si si mangiava freddo. C'era uno che si mangiava i bicchieri. Si può Luca. Ma se dico, boh, non si stacchiava niente, si mangiava rubretto, amore. E ma che so che ripasso. L'aveva fatto per scommessa e dopo c'era tu quello che chiamano Furia, lo conosci? No. E quello lì una volta c'era questo tipo che era rompe in bar, ha preso e è entrato dove c'erano gli anziani giocando a carte. A questo anziano ha detto poni la mano così, allora via lo cucci, tu sa che la cerchi di rugosi tieni la mano. Cazzo, questo qui si è incazzato, questo vecchio. Ha buccato la mano, ha detto tanto ma cosa da fare, se non c'era furia, questo qua stava tornando da macellare. Va via, di così di affilare, ha detto, dove dici? Io a te cazzo, se si entro in gola e ti posso fare aprire di rubuco che ha già ammazzato. L'ho passato, l'ho scegliato, la cuta vada di bene, cazzo se l'ha mandato. E ha fatto bene. E dice che lui chiama le furie anche così un bel. A voi che hanno acchiappato il rogno, che pure è che si abbassa. No, questo furia ha difeso a questo vecchio, capito? Che ci ha mandato via quel ragazzo che l'ha insecchito nella mano. E ha fatto bene, anche un miserabile, chi vuole non aveva ragione. Tu cosa vi fai tu, metà anziani, cosa vi fai? Vai lì, non vi torna più in occhi. Ti vengo un'altra voce, ti posso fare la figlia, ti posso fare un buco. Beh, chiaro. Beh, a Marco ripetere niente, perché no, fate pure lo ma lì c'è cent'anni, ma poi non mi piace i circoli. Loro andavano a Bresci Agostino, cosa, Bresci una cosa, ma io sono andato uno o due volte, ma poi sono più tornato perché vedevo tutti Briendi, Vendi, tutti a Bozzi, mamma mia, che ambiente vero. Io sono incipito, insomma. E mi fanno i ragioni di chi superpotenti, vai sicura, ti fanno una giuscia, a caso ti posso pagare tu, a me, poi sempre, non ti lamenti tu, che ti ha già fatto io, chi su. E ne capa, le mosche sono tutte. Sempre ucciso. E si ambienti proprio, ma se andiamo per verbo, sto un bitter, anche una birretta, ma proprio andando male, non è che stavo, invece Giacomino lì andava e si comprava 20 mignon e poi se li portava su, se li beveva, si è ambucato da andare. Infatti non avevamo come interrompo. Non l'ho più visto, mai più. E Giovanni non lo prometto, pare. E non l'hanno più voluto i ragazzi, perché hanno detto che faceva fare brutte figure, che andava con l'odore dell'alcol, e la gente si lamentava, capito? Beh, in effetti non è che... Non è il massimo. Madonna, mi sono dimenticato di una cosa. Aspetta, un attimino di bianco, dai. La faccia per questo pezzo. Hola! Beh, fatto. L'ho fatto già. Yeah. Quando devi fare molte cose, c'è sempre qualcuno te la dimentica. Capo, io non è così. Allora, sono dimenticato. Babbo, santo. Il libricino oggi. E tu dici, è buono davvero la tariffa, eh? Cosa? Il libricino delle tariffe della Wind. Ah, a me la Wind non mi piace. Io subito ti prendo i cosi. No, non mi piace, è un mio parere, poi. Mi piace Uniter. E basta. Tim l'ho usata, va bene, ma non ti fa nessun regalo, invece la Omnitel ti regala anche opzioni e cose. No, io che buona vedo, ce l'ho già, ce l'ho, pensavo che non lo facessero più, invece la fanno ancora, per internet, con la chiavetta. Innanzitutto la chiavetta costa meno della Tim e della Vodafone, costa 39 euro. C'è una promozione, si chiama Mega 100 ore, che è come quella che ho, che dura un bel, che sono 100 ore al mese, 15 euro. Invece gli altri ne vogliono di più, ne vogliono 30-40 euro. E ti assicuro che funziona benissimo, non bene, no, benissimo. E va bene. No, non possiamo lamentarci. Credo che non la facessero più, invece va. Ah, no, io pensavo che era per la telefonia, allora... No, pensavo che fosse per il telefonino. Non l'ho mai usata, non lo so, però non ti posso dire nulla. Ma che telefonino? Io ho preso il telefono, quindi non sono morato. Lo so. Eppure io, in qualunque... mi sono trovato sempre bene. In qualunque parte sono andato, prenderà per tutto. No, non mi posso lamentare. E di regali te ne fa? L'altra volta mi hanno regalato 5 euro. A me mi regalano messaggi gratis un mese, mi regalano telefonate gratis per un mese, 10 euro di ricarica, cioè è una cosa buona. Noi, per esempio, per negozio, abbiamo 400 minuti al mese, allora, sono due SIM che comunicano fra di loro, questi due numeri, e noi ci conviene, caspita, risparmiamo di tanto, che si paga 3 euro a SIM e paga, e a noi ci conviene. E noi abbiamo Omnitel così, e il numero interno stai dicendo. Allora li vendono anche così, li vendono qualche volta addirittura era altri SIM, per esempio cosa ne so, tu e tua moglie li fate tutte e due in tutte e due insieme. Cioè sono due schede che le vendono insieme, le prendono proprio. E questi due numeri comunicano tra di loro contrigualmente. Ma con gli altri non possono comunicare così? Gli altri ti paghi la tariffa normale. No, noi negozi ci abbiamo per dire un abbonamento. Che praticamente puoi fare le interfacce che vuoi e paghi sempre col 31. E questo abbonamento però puoi telefonare i numeri singoli per dire io sono 305, l'altro 309, non fai il numero, fai per dire 305, non devi fare tutto il numero, capito? La scappa. No, queste qua sono proprio per l'utente, sono. Tutti rubili, però a noi ci conviene, perché facciamo, non riesce a consumarle, 400 minuti, non riesce a consumarle. Però ti ripeto, se devo fare una telefonata a te, da quel telefono non la posso fare, ci sono solo i numeri interi. Ti paghi la telefonata normale? No, no, non si può proprio fare. Ah, quello che hai tu. E io. Ah, quello lì è una cosa aziendale. Sì, sì, aziendale. Scappa. Per chiamare solo i vertici praticamente, i capi negozio, eccetera, eccetera. Sì, sì. Beh, quello serve solo esclusivamente per quello. Sì, sì. Ma gli esterni, tranne quelli per di soccorso, gli altri non li puoi fare. Però bisogna vedere quanto pagano il burro. Non lo so, non è una cifra fissa, mi pare. Chiappa. Comunque oramai le aziende sono tutte quelle più importanti, che sono la TIM, la Vodafone, la Wind, prende dappertutto, prende, no? È proprio senza limite. Prima la Wind non prendeva tre parti in continente, sì, ma qua in Sardegna ci andava a Sentino per dire non prendeva. Ma va a Sentino e figlia tranquilla, da tutte le parti prende. Io l'ho avuta la Wind, però l'ho mollata perché non prendeva tre parti. Beh, tanti anni fa era così, adesso non è più così, adesso è uguale a tutti. E beh, le tariffe come sono? Ah, mi trovo bene io, ho fatto una tariffa senza scatto alla risposta, non pretendo molto. Ho fatto una tariffa senza scatto alla risposta e poi lo volevo passare a Vodafone, solo che l'ho tenuta, non so perché. Perché da un po' di tempo a questa parte mi aveva girato le spalle per una cosa, perché non trovavo le ricariche piccole, allora sono sempre rimasto con loro. Da noi ci sono. Perché da 5? Da 10? No, da 5 euro. No, da 5 non lo so. Non penso proprio che le trattiamo qua. Eppure io invece le trovo sempre. Cioè, adesso prima la TIM non ne aveva mai, adesso anche la TIM ci sono. Cioè ci sono sempre. A quelle Wind? No, no. Sia Wind che Tim, le trovi sempre quelle a piccola taglia. La Vodafone non capisco il perché non faccia fare più. Cioè le trovi ma ne trovi poche. Ah scusa, adesso vai nel tabacchino e te la fa le ricariche, cosa ci vuole? Se le fanno, no, così piccole, da 10. Ah. Vodafone no, non è sempre. Allora sì, sì, la sfida la faccio io anche con l'automatica, anche da 5 volo, fa Wind. Alla Sisa? Appa. No, alla Sisa di Sassa non stanno più dando schede. No. No, hanno il posto. Te la fanno col posto? Quindi su posto la fanno. Ma noi diamo la scheda. Avete ancora le schede voi? Sì, sì. No, no, qua no, non te la conosco più. A meno che l'abbiano cambiato adesso che sono in ferie, ma sino a quando ero in ferie l'ho presa io l'ultima da 10 euro. Non è stato un sistema diverso. Raga, non posso l'affare, dici il numero te lo fa. Sì, ho visto. Però ci sono alcuni punti, alcuni negozi lo fanno, è vero, non mi ricordo dove, però l'ho già visto. A me è poco mi ha appunto, importante che a me mi carrega il telefono. Infatti. Frega niente. Vabbè, adesso è più semplice, dai. Ma a me mi sono sempre piaciute più le carte, prendo la carta gratta, faccio il numero io, tutto io sono sicuro che carico. Gappa, gappa. No, immagino, se carica, carica. Anche mi si sbaglia, raga, che cosa guai? No, non ti preoccupare che non sbagliano, perché il numero te lo fanno rivedere, se è giusto. Dopo inviano la conferma. No, ma io glielo scrivo il numero. Io glielo scrivo in un pezzo di carta e loro se lo copia. Ma poi te lo fanno rivedere a te. L'hanno scritto come glielo ho scritto io, già giusto. Ma io non ne ho bisogno perché il mio numero me lo ricordo a memoria. Vabbè. Sai quando avevo la fetetta, così mi ricordavo, dopo ho cominciato a svanire. Mi ricordavo i numeri cellulari mio, di mia moglie, di mia figlia. Mi ricordavo i numeri di telefono a memoria. Non mi ricordo più un cavolo, ma forse perché sono diventato ottuso, non li voglio imparare io. Chiappa, no, guarda, ti do un consiglio. Tieni le cose sempre a mente, che è meglio. Anche se ce la fai a tenere, se svanisco. Chiappa. No, ma è... Oltre il numero del telefono è meglio pure per altre cose. Non so. Ma quando non c'hai più a maestria a memorizzare, prima mi ricordavo tutto il numero di codice fiscale, tutto quanto. Sapevo il numero di telefono di tutti. Adesso non mi sto più mettendo l'impegno, non lo so. Prima mi veniva più facile ricordare certe cose. Le targhe dei furgoni che abbiamo avuto, addirittura mi ricordo del primo furgone, fatto lungo. Tutto di adesso, quello che ho avuto prima. Scappa. Purtroppo si fa anche alcuni lavori. Bisogna ricordarsi di tutto anche. Perché sembra così, ma se da buoni ieri c'è sempre qualcuno che ti vuole fregare, è per quello che non bisogna farti sfuggire nulla. Ah, ma di queste cose già me le ricordo, non mi ricordo i numeri, queste cose qui, ma di così di volte già me le ammetto, non ti preoccupare. Sono lì è molto importante, anche per l'ambito del lavoro, perché ti vuole tutti. Quello è l'ambito del lavoro, non se ne parla, mi dicono mille cose, me le ricordo tutte a me. Certo. Anche a me delle volte mi sfugge qualche cosa, ma forse che non va su a gambe di voce. Però su certi punti ne sto molto, molto, molto attento. Io giusto sono le cose tipo il numero di telefono che non mi ricordo, ma poi il resto... In certe cose sono un cranio brutto, infatti i miei colleghi mi dicono come fai a ricordare, noi ce lo scriviamo. È questione di cosa, di abitudine, Chiaro, pure io mi ricordo tutto, mi ricordo. Ma non mi ricordo qualcuno vuol dire che non l'ho vista. Ma te devi ricordare le cose di un negozio di 16 negozi. se tu provi con i piegati di qua che funziona, quando vuoi zombe, qui è un casino. Perché non ce l'avete, non ce l'avete segnate le consegne che dovete fare? Yeah. Però quando sono molto, se non te le ricordi tutte a memoria, può fare grave, può fare grave, ma può potersi da fregar. Non lo so, ma solitamente chi prende la telefonata sedia scrive bombola a 12 kg, a 15 kg, per via, famiglia, eccetera, eccetera. E ti rilassi a te il bigliettino, no? Chiappa. No, che tanto devi stare attento, tu devi stare a essere. Anche sono un pericolo, perché non ci dimenticano di insegnare le cose. Vabbè, non devi vedere indirizzi sbagliati, numeri civici sbagliati, l'acqua che non hanno segnato, devi tornare indietro a prenderla perché non hanno segnato, devi vedere. Allora praticamente funziona, così funziona. Noi, ma lo può segnare nel bigliettino, però nel coso, nel registro no. Ecco cosa succede. Poi devi stare, per essere conteggiate, devi stare 2 ore a cercarti le bombole. Perché non lavorano con la testa. Cavolo. E io ci sono tutti e due me, ricca e crocca, e là in un anno. La persona non sta più venendo di sé. Allora, come ti ho detto, è pure un cacchepotta burguetto, non ti credi che... E noi dobbiamo stare, soprattutto deve stare a guardarci tutto, perché questo, se no non tornano più le cose giuste. Quella ragione là non c'è più. Ehi, già c'è. Ciò che era modo di vita. Gappa, gappa. Tante volte chi fa la sé fa per tre tu. Negli ultimi, bacava a fare il girone, giravi la telefonata al cellulare tuo, quando chiamavano, non solo che viene male a segnare. Chiappa. No, in quel caso lì o lo segniamo a qualche pezzo di papiro o lo segniamo a mente. Ed eliminavi chi fa dei casini. Chiappa. Sì, ma lo sai che un po' di volte è capitato 4-5 concerni. Tenere tutti a mente. A me lo stesso mi capita. Dove si vuole prosciutto, l'altro che vuole osamo, l'altro che vuole ghiaccio, l'altro che vuole l'altro. E me le tengo tutte a mente. Quando scendo giù mi preparo tutta la roba e la porto. Chiappa. E ragazzi, come si è malfattito? Che non ho preso una bombola, eccetera, eccetera. E può succedere, talmente tante cose che hai da fare, sei sempre corrente, che può succedere. Sì, succede. Molte volte che passare dritto, devi fare la consegna lì e passi dritto, poi ti dico, devo fare quella consegna, biglietto per andare lì. Allora, la maggior parte delle volte che succede è colpa mia. Che cazzo, qualche cosa me la dimentico. Però cerco di tenere tutto in mente. Ehi, vabbè, siamo umani. Cazzo. Invece se c'hai altri pensieri ti succedono queste cose, perché la testa occupata non è libera la mente. Chiaro, ma io ti parlo di tanto, sto travagliando e non penso a niente, penso solo che devo sbrigarmi a fare la consegna. No, se mi vengono altri pensieri, allora vuol dire che mi incazzo pure. Tu purtroppo... Siamo esseri umani, uno può avere anche altri pensieri, non è che se c'è pensieri grossi, ecco. A volte ti dimentichi quello che devi fare. Scappa. Ma io vivo così, io cerco di non ricordarmele quelle cose. Dopo si parla e si vede. Tu non hai ancora famiglia, pesci di luci non ne hai, là. Bene o male, c'è per pesci di ragazzi. Uno che ha famiglia deve pensare come fare quello, come fare l'altro, e sta sempre rimuginando. Io già, è proprio la... penso che non sia proprio così, io ho il mio carattere, cioè no... in alcuni momenti c'è cose, quando ci pensa in gatto, in certe cose, e quindi è meglio non pensarci. Male. Bisogna pensarci, bisogna affrontare le cose, cercare di affrontare nel migliore dei modi, e quindi bisogna pensare. Se non pensi ti scivola tutto addosso e non chi su di tibili ti bigli. Ma non è neanche quello, già è che preferisco scivolarmi addosso che... tanto, lo capisco che le cose sono così, no? Alcune cose sono in quella maniera e non c'è nulla da fare. Vabbè, ma ci sono delle cose, insomma, magari pensando come farle trovi un rimedio. Invece ci sono alcune che, vabbè, purtroppo sono così e così le devi tenere. Allora, quando è che ti penso io? Quando un pompino ti va a che danno? Allora sì. Ti sei rapparanuto. Chiaro, mi si girano a vero. Però poi, a sai cose, c'è un po' un carattere così, ci ripenso, e poi no, non ci ripenso. Magari il giorno rimango incazzato a me. Sì, vabbè, ma non è sempre così. Sono fatto così, nessuno mi può ciambare. Non è fatta in maniera sua. Chiaro. Io so. Ah, diciamo tu hai diverse anche responsabilità, io ho delle responsabilità del mezzo, di questo, dell'altro, diversi compiti anche. Perché di che? Se il mezzo ce l'avrei avuto io, avrei lavorato nel migliore dei modi, ma la fucina no, non è che... tutto un cazzo me. E come dici tu, da noi se tocchi qualche cosa te la fanno pagare. Tu tocchi una macchina è colpa tua, te la paghi tu in tasca. Beh, quello sì, No, vabbè. E quelli belli lì no. Perché se uno si lascia la macchina può capitare. Ma non importa che non ti capite già ogni anno. Sì, ma allora sicurezza non te ne fanno, ti fanno pagare a te. Sì, fino a un certo punto, perché poi il mio è assicurato, è stata frange, non ti pago nulla. Non è così. Infatti un mio collega non è guidato mai di mezzo, prende la macchina sua. Va a dire così di macchina sua, anche tutti mi ritocca. Poi se a me me ne viene una cosa, mi fa male, lui mi paga, mancare il luce di Nesciane. No, non è quello lì, se tu tocchi perdite col furgone, a chi magari non sei attento, o ti è capitato che hai toccato la macchina perché non ci passavi, sei passato lo stesso e cose del genere, stava a debagare. Questo mio collega prende la macchina sua, si fa le consegne in macchina sua. Non sia. Uno basta stare attento, basta stare attento e no, non succede quello. E ma ha paura lui, ha detto che non deve toccare il furgone. Niente, spreca la benzina a macchina sua piuttosto che prendere il furgone. Ma come? Più forte di lui. Chiaro, ma prendiamo già in bocca. Vedo Marco. Che la ditta mette il mezzo per fare il lavoro, se poi... Chiaro. Io non l'avrei mai fatto. se uno guida come 13 anni non succede questo. Ma tu? No, stiamo mettendo la portante. Quanto? Se qualcuno voleva entrare. E passava. No, l'ha messa tra me e te. E passava. Telepatici, ci sono qualcuno che ci ha rotto le palle e tu buonasera Luca, buonasera, se mi fa sponsorare insomma di testa sono proprio i, come si chiama, i residui dell'influenza. Anche tu, anche io la mal di testa, la cervicale, già la cervicale al 1000 per 1000. E io non mi dittai. Mamma mia, 9.40 della Revenge. Sì, 9.40 e più era. Ah, era forte lo stesso, Ma che già li passava? E allora ho capito. Io mi arrivo 9.40 a me, buh. Io poi arrivo 9.40, buh, non so. 9.40, 9.40. Claudio mi arriva 9.35. Circa, dai, più o meno. Questo è oltre 9.40. Scappa, ma si attacca a Gianni, lo copre. Lo fa un esempio, poi non lo fate che mi arriva qua. Beh. Ma ho già visto la portanteria, che era 2 su 10, con la 9.40. Oltre 9.40. Infatti, neanche caso passato. Adesso quanto arrivo? Vai, prova. Già, se schiacci il mulino subito non lo vedo. Andiamo, andiamo, andiamo. La cosa è una cosa di meno, ma non lo so, tu sei 9.40 già. Devo attaccare, baci così. Ma quanto è scelto adesso? Ora di meno 9.40. Ultimamente è un fugaretto rompendo le scatole, sta. Ma lo sa perché? Perché poi pensano che magari sei tu l'altro, capito? Mette nei casi degli altri, mettendo la portante così, invece se c'è qualcosa con qualcuno basta che lo dica. Invece mettendo la portante così succede casino, magari uno pensa che sei tu, perché magari è lo stesso tuo segnale e cosa, capito? Lasciati, come prima mi incazzavo un bel, la verità, guarda, un bel, era un animale, adesso mi ha sbatte tutte le balle, va, credimi, mi ha fatto le balle. Ma fai bene, sì, anche per rispetto a chi non ha mai fatto niente, cose, io non penso di aver fatto bene a nessuno, non vedo perché. Ma cosa ne so, ma se io ti dico, Gianni mi ha rotto le balle, te lo dico, non è che mi caputa la portante, non ci sono dovuto a fare delle tempusi, la verità, te lo dico, ti dico Gianni mi ha rotto le balle, così ti dico. Che cosa ti faccio io portante non ho mai buzzo in vita mia. Ho fatto capire, ma che senso ha, ma di sumare le persone e basta, però io lo pago come vuole, a me non mi interessa. A me mi hanno sempre accusato già, eh? I vicini di Antonio, sempre accusato, io mai messo portante a loro, mai. Perché non si può mai dire la portante, vedi? Uno può camuffare, può abbassare la potenza dell'apparecchio, può alzarla, può mettere al massimo, può mettere a metà la potenza dell'apparecchio e attaccare il lineare, non riesci mai a capire chi è. Tu è bravo, tu le cavi bene. Però manco che tu sia in macchina sotto, allora sì. Se è in macchina sotto, là la tra Cuba, quello sì. Se uno sa giocare bene, tu la dici di capo, ti può fare 3, 4, 5 segnali. Che passa per la te? È distorto, chi è che stava parlando? Guarda, è morto. Ma c'era qualcuno parlando su. Dai, era. Vabbè. Ho sentito belli, una cosa del genere, io ho sentito bene. Aspetta, ma tu non ti arriva, mi passa la terra tu. Mi sento sotto, sento anche a Gianne. Strano, allora non può essere, allora entro la tua. Ti assicuro che è molto forte. Strano, entro la tua e fidati, non può essere. Schiappa. Non è esagerato il buglione che tu sia più importante. E io la dico, c'è Paolo, che ci ho visto, ciao, la notte, grazie. Ma tu facciai a me, sono rimasti mai arrabbiati. Ora, ora, ora. Avanti, ora. Ora, guarda che... Beh, no. Aspetta. Attenta Maria, buonasera, è l'operatore Gianni Delta Romeo della città di Sassari che ti super cordializza Maria. Avanti, mia hermana. Ok, Sardegna, Italia, Sardegna, Italia, se scucci l'operatore Gianni Delta Romeo in compagnia dell'amico Antonio e dell'amico Luca. Sì, c'ho un nome personale, questo non è Gianni Delta Romeo, non lo coordino, dimmelo Giovanni, è il suo nome, sta corretto. Allora, reiniziale, sono Delta Romeo, io mi chiamo Doppio Room, come Delta, Oscar, Papa, India, Oscar, Romeo, Hotel, Uniform, Mike. Capa Maria, la propagazione va via. Avanti Luca, se scusi Maria. Ma cosa fai? Adesso mi trovo importante, cosa parli a fare? Prova a salutarla. Ciao, una puttina. Antonio. Maria, te saluto e la propagazione è andata via. Negativo propagazione. Te saluto un 88 di simpatia. La morte mia. Io sono Gianni, non Luca, Gianni, sono Gianni, Santiago va da Santiago de 3 a 5 e la radio parte da 4 a 5. A momenti ti escucho molto bene. Gianni Doppio Room K, la mia città è Sassari, nord Sardegna, Italia. Qual è la tua città? Ah, la mia città, mi codifico, Giulia, Alfa, Eco, Roberto, Giulia. Spagnola? Sei della Spagna, Gappa? Sì, mi colto. Ma che te ne guisca? Te saluto Maria, buenas noches. Ciao Maria, ciao! Mi in terra! Maria, ciao! Continentale! Ho piacere, Maria. Che cazzo è un culo? Lui è il mio buffone. Vuoi carezza. Che cazzo è un culo, non è cagheni, Maria. Stavo dicendo già, il mio pupo, le carezze vuole. Davvero? Sì, quando vedi Titi lo stesso, mi sale sopra, mi sale per la carezza, si mette in piedi e mi tocca la gamba. Oh, il suo lui, tutto si sta frusciando, vuole essere accarezzato. L'altro giorno si è messo a piangere, si è messo. Perché voleva le carezze, allora l'ha preso Babbo e tutto accarezzato. Se mi sono dimenticato sabato a farti vedere quel gatto tu. Quello che ho fatto a Viola, Viola Santa. Ma mi nomi, avevo mandato da Elza, no? Anzi, a Nuraki, non a Viola. L'hai fotografato? Non te lo metto, te lo faccio vedere sabato, poi mi sono dimenticato. È uguale a nero. Bellino. È un bel coccolone, ci fa prendere da tutti in braccio. Invece vicino al cammino non si muove più da inchini. Guarda che secondo me il gatto nero si sente diverso dagli altri. Si sente emarginato. Giappa. E comunque ha un carattere buono questo. No, non vuole nessuno, capito? Il gatto nero c'è la superstizione che ti porta a Scaroni. Scaroni ha vedano in capo, vedano. Se lo sono messo su Facebook quel gatto nero, io ho scritto di accettarlo, se non credeva, e nessuno ha accettato, un saluto e basta. Io invece l'ho accettato, perché secondo me è come tutti gli altri. Infatti, non è certo il colore che porta Scaroni. Luca! Ma la di Guadalupe porta Yelal. Gatto che... Ma non ti voglio dire una cosa, ma cosa stai dicendo? È già carognato, poveretto. Cazzo tu, così il bizzo, io cavo di culo, poi la scrivo su Google a vedere, gatto vero cosa ti porta. Ma uno lo conosco io, uno lo conosco io, abita la parte di San Giovanni, una volta è capitato, più di una volta, è capitato, è fatto per la stessa strada, è fatto sempre il gatto vero lì nella strada, lo sa fare, lui fa un altro giro, a colpi di 20 minuti in più, 20 minuti in qua, arriva a casa sua, però fa un altro giro, ma se non ti dica, fa un altro giro. E gente malata, malata di testa, eh. Un gatto nero non è solamente un gatto nero, Se no, non ha nulla, c'è solamente un gatto, un animale. E come quelli che vedono i negri, li vedono schiavi. Vabbè, se è nero non può essere bianco. Pensavo che eri tu, pensavo. Per dire la verità c'è un po' superstizione. Ma no, non lo voglio toccare il ballo, non mi vuoi, scusa. Ricordatevi una cosa, che il gatto nero è solo un animale, basta. Anzi, lui si sente differente dagli altri, poverino. Non so, anche tu, ma purtroppo è così. Capito. Poi così. Ce l'ha in casa, forse porta fortuna. Vabbè, non è certo il gatto che porta Scaroni. Ma Scaroni se devono vedere ti prendono la rasura. Non credo, già. Oh, è tutta superstizione. Come una volta andando al Ghero, correvamo con una coppia di amici, questa amica mia, fermati già, il gatto nero, ma cosa mi ha fatto, io passo lo stesso, mi si è sciurata la macchina. A me mi pare che era essa. Oh, lo sai cosa mi si era bruciata nella 500, il filo della bobina, quella che porta le candele. Meno male c'aveva un filo, una cassetta con le reattrici, così c'era anche questo filo grosso, quelli da massa, quelli che fanno la massa intera. avevo fatto la giunzione con quello lì, ho fatto la giuntura lì su e via. Non andava da Matte, allora era Edda che sputava iella. Te l'avevo detto di fermarti. Scappa. Ah, secondo me è solamente un animale, poverino. No, non è altro. La carogna è dentro il trombone, è dentro il trombone sotto la macchina. Era un grillo. Scappa. Io sono contro queste cose perché non le accetto. Secondo me è solamente un gatto come tutti gli altri. A me mi vuole bene. Io lo grido, mi dai a mangiare tutto. È un grido, io. Sai che dallo spino si trova più con la sabbia, tu ne ho trovato una per miracolo. Ah, l'ho provata là. Ma costa un bel poco per quello che va la ruba. Sì, ma se ce l'hai comprata un pacco l'hai anche provata. No, non l'ho provata ancora perché c'è ancora l'altra, però l'ho vista come che è bianca. È buona lo stesso. È buona, conviene un bene. Te lo dicevi. Interessante che non fosse a fare un riago, anche se no non è più più. Perché ce n'era una che è quella gatto san, che è quella che costa di più, e gli fa fare l'odore al gatto. Io dell'altra sabbia non sentivo mai odore, invece con quella gatto san piglio l'ubriaco. E questa è quella che costa di più. Ma quella lì, quella che compriamo noi, quella è profumata. Ah, c'era tutta la carta sta vuota, c'erano due o tre che erano spaccate e una col manico rotto. Ho preso quella col manico rotto, tanto la sabbia non rimase nulla. Chiappa. Ma dai, guarda che è buona, te lo dico io, perché quando sei entrato qua mai odore c'è il tipo. No, ma non sto dicendo quello, sto dicendo solo che quella costa un po', che è quella che è più cara che esista, fare che cosa, non voglio sbagliare, ma 5 euro, 6 euro, una cosa del genere, il sacco. Il signore non è mai così per capigliarla. Comunque è buona, la verità, no. Va bene. Ti ho detto che voglio aprire, mi ha detto che va bene, prendi, l'ha provato. Non l'avrei mai provata. No. E vorrei che mi torni la risposta. Io una cosa sorda, lo spiro, ho trovato che non fa bene il budino. Piace. Il budino che non va bene, ho detto, fa schifo. Ah, quello là, beh. Ma se compri quello in corte è buono. Qua. Non è in frigorifero. Ah, no, questo c'è quello da fare. Oh, quello non va bene. No? E vabbè, come tutti i posti, fa che cosa c'è sempre che non. Tu prova a mangiare quei frullini, avessi non so buone. E ce n'è roba buona, Luca. Ehi, no, comunque, quota gente lo dice. Gatto nero è Paiella, ma non quota gente. Perché c'è superstizione, ma sono tutte fesserie, la medicina dell'occhio, tutte queste cose qua, io non regrido. Ehi, vabbè, infatti, non occupi tu la medicina dell'occhio. Luca, l'hai visto stasera il programma con Barbara D'Urso, visto che ti piace a te? No. Era una sensitiva che praticamente diceva, una sensitiva americana, che praticamente diceva di vedere gli angeli. Gli angeli erano le persone che erano morte e parlavano con lì. E c'era della gente tra il pubblico e ha detto... Praticamente vedo un ragazzo di 25 anni, mi sta raccontando che è caduto con la moto, andava velocissimo, ha imboccato una curva, è caduto, ha sbattuto la testa ed è morto sul colpo. Si è vista questa donna piangendo. Cazzo. Era il figlio, praticamente gli ha detto anche che non aveva un buon rapporto col padre, che c'era un po' di distacco col padre. Cazzo, questa qua subito si è riconosciuta. Poi ha detto, vedo un bambino, non sono molto brava, dice, con l'età, però pare che abbia 8-10 anni, è caduto giocando, è entrato in coma e poi non ce l'ha fatta più, è morto. E che si è messo a piangere un'altra donna, dice, sì, è mio figlio. Poi guarda, in un gruppo ha detto, sono un po' confusa, una di voi due è parente di questo ragazzo che mi sta raccontando di aver avuto il cancro e di essere morto dopo un po' di agonia, ne aveva sofferto molto, che gli erano caduti i capelli, ha detto tutte queste cose qua, si sono messi a piangere in due, una era la madre e l'altra la sorella. Vabbè. Ascolta Gianni, interrogativo. Ma dove si prendono i link, scusa? Senta con di vice, cioè, ma tante volte che vedo un link, no? Su Facebook, no? E lo condivido di un'altra persona. Senta condividerlo, sì. Allora, praticamente a te, quando mandano i link, sotto il link c'è scritto per dire, ti posso dire, amori, oppure ti posso dire, è un link adatto a me, tu clicchi di lì e ci sono tutti i link. Ah, per esempio qua c'è scritto per ragazzi di quartiere, c'è il link e poi c'è scritto noi ragazzi di quartiere, tu clicca lì e ci sono tutti i link. Ma i link non ci sono già, non c'è il link, io dico noi ragazzi di quartiere, vediamo un po', ma non c'è niente già. Però non ci ho capito una mazza di questo cacchio di chiama di Facebook. Ah, normalmente quando scrivono il link poi sotto condividi, mi piace eccetera eccetera, c'è scritto, c'è un'altra scritta sotto e quella lì è la scritta dove ci sono tutti i link di quel genere lì, capito? Non lo credo io già, tipo il tuo l'ho condiviso davanti quello della scopa. E sotto ci dovrebbe essere scritto, ci sono alcuni che ci sono scritti, io li prendo da lì, io entro lì e poi li prendo. Non ho mai, guarda, credimi, ci sono un anno circa, non ho mai bucato bene. Ah, oh, io lo faccio con facilità, ma l'ho scoperto solo e non me l'ha detto nessuno. Vabbè, io ho tante cose che ho imparato, si può dire da solo, ma ciao, come dai l'occhio. Comunque tu scorri i link, guardi, sotto condividi quella cosa, c'è una scritta per dire è il link adatto a me, oppure cose così, tu clicchi lì e ci sono tutta una serie di link, tu ti scegli quelli che ti piacciono e li mandi. Ok. Hai visto? No. Adesso non l'acco, sto qua. Infatti io dico, ma cazzo li prendono questi link? Perché se io in alto scrivo un link divertente, un link, me li dà, però non mi fa, non esce la scritta. E vabbè, ma già ci sono, no? A me mi esce, è come se ti diano l'indirizzo dove ci sono, capito? La scritta che c'è sotto è l'indirizzo dove sono tutti i link. Allora, per esempio adesso, questo qua mi ha mandato i migliori amici per Natale, ciao, guarda il mio migliore albero di Natale, ha aggiunto i miei amici, poi c'è sotto, pochi secondi fa, mi piace, commenta, scegli i migliori amici. Sotto, sotto ancora non c'è scritto nulla. E tu clicca sui migliori amici con la scritta che c'è sotto. Ma consenti? Ti dà consenti e basta. Aspetta, consentito, aspetta. Ah, ecco. Per fare l'albero. Hai trovato? Guarda. Sembra la stessa batteria, sai? Sì. Quando è che l'abbiamo messa? Ha detto che la segnavi tu. Sette, è vero. Il 7 di questo mese, forse. Tu pensi che fa la stessa riuscita? Sì, forse sì. Se fa la stessa riuscita conviene. Vabbè, visto che ce n'erano un bel di batterini alla comanda. Guarda, io sono meravigliato, c'è un orologio poi che consuma un bel ancora andente. E consuma un bel altro. Consuma un bel di batteria. A me mi durano un anno le batterie di orologio. Già. Un anno mi durano le batterie di orologio. Chiaro. Ho questa qui massimo, sì. Massimo 2 mesi e mezzo e non venirà più. O allora che vaga che cosa non ridurre? E di quelli che camminano, cioè a posto di fare tic-tac, sono stati sempre gli andelli. Ah, che hanno la lancetta veloce. Magari è quello, la velocità che li fa consumare di più. Però qui c'è il viaggio già, non vedo poco, cioè sono già 3 mesi. E l'ho presa lì stesso, non mi ha dato ancora che si sta durando. Sarà la mia impressione, sarà, ma a me pare un barbone. Se vediamo la riuscita che ha quella lì, perché se conviene, e perché no? Se conviene si prendono lì. Poi cosa? Non si è prendere tanti soldi. Paga. Quanto costa la durata? E 5 euro. Magari ne costa 3, mi pare. 4,90 euro, 5 euro, cioè, te la dita tabacchini te la vendono 5 euro. Nettamente. Da noi costa 4 e qualche cosa, 4,50. Adesso vediamo, va. Se solo quanto dura ne vale la pena. Infatti. Luca, ripeti che io vado in bagno un attimo. Aspetta una seconda, arrivo subito. E allora ti vado pure io. Da. Mi ha fatto le olive, ho messo l'infuso a fare e l'ho messo a bagno. Stai facendo la riva confittata? E me l'hai detto l'altro giorno? Le ho gustate, erano dolci, ci ho fatto l'infuso e era di buttare molto. Ma tu ho fatto un altro tipo, leggo l'aglio per fermo il peperoncino in bagno di olio. Ah? Sai come le fanno a nuracchi di olive? Come fanno? Le pestano col martello e poi li mettono sotto sale, acqua e non le la cambiano mai, le lasciano 8 mesi così e poi sono buone. Diverse dalle nostre, fanno in modo diverso. Ma le puoi diventare saliti però. No, non sono né amare né salate, sono buone. Le mettono sotto sale? Le mettono sale e acqua, una volta solo, senza cambiarle mai. Le chiudono e le lasciano così per 6-7 mesi. E diventano dolci. E beh, recupero una cosa di martello. Sì, le pesta. Invece che farvi tagli, le pesta. Non l'ho mai visto fare così. E a nuracchi le fanno così. Io l'ho mangiate anche, mi ha detto che queste qui sono fatte così, guarda. Ti faccio assaggiare, questo è quest'altro tipo che vedi le facce fanno col taglio come lui. Certo, ma c'era tutto un altro gusto. Io preferisco le nostre, ha detto chiaramente. che gusto avevano? Olive senza condimento. Fate solo con sale, ce l'hai presente, sale e acqua. Così le fa anche mia suocera senza metterci fuso, però adesso glielo fate assaggiare come le faccio io, gli sono piaciute e anche lì adesso le fa così. Ma la gente ti non chiede. Ti non chiede a loro. Buono. Faccio l'infuso che faccio bollire per 40 minuti, in modo che tutto il succo che c'hanno sia fino a chi che la loro lo torna fuori. Io tolgo fuori i ramoni, i rami grandi, le tiro le foglie, rimetto le foglie dentro il barattolo e quando è raffreddata l'acqua, l'infuso che ha fatto acqua nell'infuso quando è raffreddata gliela metto dentro. E poi ci metto le olive, metto un po' di acqua, un po' di olive, poi li metto le foglie, poi di nuovo olive, poi di nuovo acqua, fino a riempirlo tutto. Già, ma... pensavo una cosa così. Ed è buono, anche quello. Non stavo pensando cosa mettermi domani. Tanto si va di Eva, per vestire un po' l'anticcio. No, già ce l'ho qua, già. Ce l'ho comprato i pantaloni, quelli che sono buttiti dentro e fuori. Come c'è anche a pescare, anche in moto, cazzo non entra un filo d'aria. Chiappa, no, già ce l'ho qua, no, i pantaloni per lavorare sono asciutti. La maglietta e la felpa. La maglietta ti metti ancora, io no. Sotto. No, io metto solo la felpa grossa con lo alto. Beh, la maglietta non te la metti sotto. No, non ne uso io magliette sotto. Le uso, mamma mia. Non ne uso, ma non sudare un bel. Oh, io senza maglietta non ci riesco. Beh, queste sono le abitudini, io magliette sotto di sotto non ne uso. Né maglietta, né canottiera, né niente. Non si brava niente, non la tratti la maglietta d'estate. Sì, quello sì. Gappa, se me lo ricordate, ho visto. No, ma io non mi pongo la maglietta, non ci riescono. Io sto parlando... Certi si mettono la canottiera sotto la maglietta, pure. Così non mi piace. Io ho una maglietta e la felpa sopra, il giubbotto. Poi ho maglietta non me ne pongo, verità. Sto a petto nudo sopra il corpo, basta. Non mi piace, non mi piace. E io sopra il caldo. A una certa ora mi viene pure spogliarmi tutto, quando c'è il sole. Anche io una certa ora è caldo, però senza la maglietta no, non ci riesco io. Io prima le mettevo quelle bianche, poi le sopportate. Io non la sopporto senza, mi dà proprio fastidio. Sì, ci sono tutte e due qua. Sì. Che ha pagato, e queste sono le abitudini. La presa, invece una... Quando stavo cercando i gatti ed erano qua tutti e due. Infatti io non posso uscire nella poltrona perché sono andato in bagno e ho detto qua dove è tutto. Cosa vuoi fare? La sorriva, se vuoi la rete. E tutti se ne va vicino alla lavandina in bagno. Sicuri che nelle... adesso si è preso l'abitudine che c'è. Questa lavandina mette mia moglie per le gocce, queste cose qua, un tappeto. Il tappeto un po' lanoso, rimane caldo, e lui si curica lì. Grazie. Adesso siccome sentiamo il caldo tutte e due, sono venute qua, poi le siamo visto. Ho messo la sacchetta del computer lì, e da prima si è cucata sopra. Pagato. Sì, finiamo. Era un macchio di nobbi, sopra la mia poltroncina. Cosa vuoi dirle? Non so, lo fa chi ti come trova un giornale sopra il tavolo, mira se ti poni sopra, sicuro. E scappa, tutti e... No, a me non mi turba, no? Però la verità, No, manca a me, a me non mi dà nessun disturbo. Mattina li lavo, li pulisco, lo lavo, lo pulisco a titti e via. Scappa. Io devo da mangiare la mattina, li faccio tutte le cose. E allora, anch'io. Mattina prima cosa è presa a loro, poi faccio tutto il resto. Scappa. E beh, oh, la legge ci pensa alla padrona, io penso a lui. Ogni tanto la figlia la fa per mamma mia, una lotta, A me non lo spazio di più. Oh, a lei non era non ne ha bisogno, no? Solo con la padrona, altrimenti a me non si impiegia. Già come impiegia con essa, perché non gli piace, non ha mai detto che se ne la faccia. Che se ne rabbiezza. Poi se vedi a Titti quando la spazzano, li meravigliati. Fa spazzolare prima sopra, poi come vede che è finito sopra, si gira lì, si appaccia all'aria, si fa spazzolare. Oppo, tutto tanto, oh, secondo i giorni, però, come tira a far capo? Secondo i giorni non vuole. No, lei non vuole essere toccata sotto. È veramente una rabbia. L'ha anche soffiata la Monica, però non gli fa niente perché sa che non deve fare, se la più io mi grazia, e fatti queste cose. Perché c'ha le tite sotto, non vuole toccare. Ricappa, è vero, c'è. Senti. Non vuoi toccare le tittine, è vero, c'è. All'orecchio che è neo. Sono intelligente. La voglia, forse ne sarebbe le cristiane come c'è l'animale. Vedo. Più bravo che non andrà a rompere il cazzo da nessuno. È pagata. Io. Fra un po' come ti gurro. E pure io. Fai tua televisione un poco e da poi mi interrompo. Che se ne sta andando anche a mal di denti, ma figurati, oggi se dormo io. Prima male di capo, va mal di denti. Per ora. Ai, ma ne sono in vena. Ma cosa? Quanto ti dici il dolore? Ma di te sarebbe se l'umidità. Come te la apri mai? Ma di te sarebbe se dall'umidità. Sicuramente. Niente, non me lo causo io. Ce l'ho e buco. Sì, già lo so. Niente, ma dopo che andrò a rientrare uno. E dove ti dico? Non mi è venuto a pensare a rimanere. Gappa. Cosa si ti mangia per un po' di febbre tutto quanto può fumare? Io ero anche un po' andato poco, vero? Io adesso mi prendo un occhio, vedo se mi passa, cazzo. Già preso uno poco fa, fatto una. Ma di testa mi è passato. Gappa. Un casino, ma. Siccome c'è un dente che mi sta muovendo, io me lo stuzzico con la lingua, mi è venuto mal di denti adesso. Ha detto che si muove. Allora. Parola. C'è il dente che non si vede, il dente fondo. Cappa. Non so da quando è che si sta muovendo, e aveva molto molto, ma non esce. Io dalle 50 euro ero dentista, ma cavavano un dente che si muove, non vedi dopo. Ce l'hai comprato spago a dire, all'antica. No, non ne prendo spago, l'altro mi è uscito da solo. Con la lingua li faccio il passo, per ovviare adesso si dice. Ciao. E tu fa la zatta, attacchi via. così fa un bel male. Ma lo gascia, da gasciare, però no, no altro, no. Mo due, si muove tutto. Ma la gasciara giù di tu, forse tu sei arrivato e non hai sentito tutto. Ho visto un coso su Facebook che è scritto. Cosa? Volevi Facebook truccato, buco. Buco volgare. Facebook volgare, cazzo. Già. Perché lo volevi volgare? Ho fatto una protesta. Una protesta? Ma cosa? Certo. C'è quello che è tranquillo, perché non metterci anche quello volgare? A te queste cose di fura, mia tuscia. Io non ho detto nulla di particolare. Ho detto solo che volevo Facebook volgare. E che io leggo Antonio. Non ho detto altro, no. L'ho anche tolto, se hai guardato bene. No, ma quell'altra volta, hai scritto un'altra cosa. E ho letto, se tu fatti sei macco. Cosa ho scritto? Non ho scritto niente di particolare, no. No, non esagero mai. Ho scritto, mi sembra, si tromba. Non esagerato. Stanotte. Fucaccioni. Non ho detto parolacce. Se ho detto parolacce, scritto si tromba. Non ho detto nulla di particolare, no. L'importante è che non esclami altre cose. No, infatti. Allora sai che, diciamo, non ho detto nulla di particolare, ma molta gente lo sai che è puritana, magari ti segnati quando ti battono fuori, lo sai. Ma se vorrei essere volgare per davvero, o guai. Però non l'ho fatto perché sono anche coerente, cioè una persona che lo capisce, non mi sono mai permesso. Però ogni tanto mi salgono le schizzate e scrivo qualche cazzatina così, ma non vado oltre. No. E vabbè, però che qualcuno magari ti interpreta male, capito? Direi che... Vabbè, no, io non sto dicendo nulla, sto dicendo solo che magari ci sono quelli che magari ti segnalano e ti fanno buttare fuori, magari non lo accettano, capito? Avanti tu. Ma raga, chi è quello basso basso? Paolo. Sì. Per quello col portato. Che se è proprio basso. Che per Paolo non ha via di mezzo, o basso oppure troppo forte. Ma tutto è nudo, eh? Tappa. Adesso di colpo entra con la trappola che ci fa su, dimmi guarda. Pierino. Ah. Luca, lo capisci tu? E io vedo QRM, non lo sento. Una e non ha detto. Capo. E c'è la rocca in sopra di me. Cazzo, è una cosa allucinante, ragazzi. Questa è da una camera all'altra. Ma anche fatto il mattino sposta mobile questa qua. Ma è una cosa che qua, non ci credi. Sposta mobile perché così lo salvate. Annetta da ritmo. Aspetta che l'aspira a polvere. Lo ricordo bene, raga. Ci ho messo... Vedo, cosa sta giù di... Non credi. Vedi, ma non ti intesi, io mi faccio la legge. Mamma mia. Sei tutto, mi avrete. No, io ti sento basso. basso, basso. Io passo il volume del... Quando parlo io ti metto a casa, quando parli tu da basso. Sai che uno solo si abbassa... basso, ma non è basso basso, non è basso basso, oh, non è basso, così è più accettabile, là. Più basso, sì sì, ma guarda, adesso che non trovo male me lo posso andare, come al solito, fa la sua entrata al massimo. No, me io passo passo, stavo portando vicino al computer, stavo ascoltando. Siete stati voi a dirmi che non mi ascoltavate. No, io già ti ascoltavo, Luca, che non ti ascoltavo. Ho fatto la battuta perché tu hai detto che tu avevi molle molle, con lo spazio, questo e quell'altro. E sta un panno di denti. Ah, di denti, dite molle molle, c'hai. Sì che vado molto piccolo il magazzino. Non mi interessa. Ci vuole un estrattore. Sapeva che è quello. Vuole l'estrattore cavagni. Se anche una tavoletta sotto misura. Ma non mi interessa, già c'è da solo se deve uscire. Così eviti che sia molle molle. E l'ultimo dente da latte sto cambiando. Alla tutto. Allora, adesso è proprio col buco la dentiera. Ormai sei vecchio, Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, continuo, ciao. Ho 31 denti. Comunque, già, quella pelle che ti dicevo, non mi sono vero, Capito. Non mi ha ancora risposto nessuno. E vabbè. Prima o poi ci sarà. Forse non avevo fotografato l'evento. No. Questo fotografiamo, andate. Uno di questi giorni me lo fotografo, lo metto. Sì. Solo che lo faccio. Ah, ti mira le pappe d'uffilo. La mania. Sono una volta c'era uno che mi stava rompendo le scatole, mi sono fotografato il culo e gliel'ho messo in fotografia e gli ho detto facciami questo a te. E lui? Lui si è rimasto male e se n'è andato. Fatto bene, mi si fa scappare la gente. Grizia. Non dovevo rompere le balle, no? Ho imparato già, vai. Ci clicco sotto e gli ho tutti i link. Cazzo, è una cosa allucinante. Cioè io dicevo gli altri, ma come fanno a condividere, cacchio? E io lo devo sempre condividere con gli altri. Però qualcuno chiama la copia la condivisione già. Sì, ma se tu vuoi vedervi tutti i link da dove l'ha preso quello a personali, lo scegli e te ne metti un altro per dire. Ah, infatti, sto cercando. Non si finisce mai di imparare. Io prima scrivo quel alto, come adesso, dove è tettone, no? E poi tutto la dove tettone, io condividevo. E io ne ho rubato, ne ho condiviso, insomma, un po' di tutto. Io quando mi metto ne metto 5-6 alla volta. Ma io lo sto condividendo un po'. A me li stai rubando? No. Ma c'è scritto condividi, no? C'è scritto mi piace, ti piace o non ti piace. Condividi tu. Capo. E quindi, Antu, io fra poco lo chiudo. Capo, raga, fermi pure io fra pochino. Si chiude. E domani li travaglio. Pure io. Mai. Finita la pacchia. Ormai. Che senti? La pagliamma. Oh, Ma si rientra la grande. Io adesso mi vado, mi prendo una pastiglia, poi andare a letto e qui so che dovrò sgasciare. Togli la parola. Guarda quanto mi fanno male. Vabbè dai, allora ti saluto. Ci sentiamo. Buonanotte a tutti. Ciao Pierpaolo, ciao Luca, ciao a tutti gli altri amici che stanno ascoltando, ciao Antonio. E ti parlerà, ciao. Ciao, buonanotte a tutti, dai, anche l'ascoltone, ciao. Ciao, buonanotte, a domani, ciao.